E allora, oh, un cane ci dà il ben trovate. Anche a casa non posso stare in pace. Vabbè. Fiorella, allora, come annunciato, siamo al telefono con un'amica compagna da Taranto, con te ci sentiamo, diciamo, a cadenza più o meno regolare per seguire la vicenda, appunto, delle lavoratrici delle pulizie di cui tu fai parte. Ed eravamo appunto rimaste che il 30 marzo scadeva una cassa integrazione, no, se non sbaglio, in cui vi avevano più o meno messe, oppure se vuoi aiutarci tu a ricordare questa vicenda. Sì, no, veramente il 28 marzo c'è stato appunto un accordo siglato appunto tra i sindacati confederali e il MIUR, il ministro del lavoro, e che in pratica hanno approvato un piano biennale in cui in pratica veniva rifinanziata la cassa integrazione in deroga e venivano anche aggiunti 450 milioni di euro per la continuazione del lavoro. Però diciamo che l'accusa non è stata per niente soddisfacente, perché comunque in pratica fino a giugno c'era cassa appunto in deroga, ma oltretutto a rotazione, a zero ore, infatti, mentre noi qui a Taranto stavamo già in cassa da 7 anni veramente, però facevamo 2 ore di lavoro e 2 ore di cassa. Adesso invece siamo a rotazione, 1-2 mesi a casa ci stanno facendo stare, e poi chi rimane sul lavoro, in pratica quei pochi, sono costretti a prendersi carico anche del lavoro che facevano quelli che adesso stanno in cassa a zero ore. E il lavoro è diventato veramente pesante, perché in poche 2-3 persone al massimo bisogna pulire praticamente l'intera scuola, e naturalmente non ce la si fa. C'è un caos si è prodotto, perché le ditte stanno facendo, che hanno vinto l'appalto, stanno facendo quello che vogliono in pratica, mettono in cassa anche quando non dovrebbero mettere. Insomma, poi la questione sta anche perché noi delle pulizie ci dividiamo in cosiddetti appalti storici ed ex LSU, che sono, in pratica siamo un 50-50%, in tutto saremo sui 20.000 in tutta Italia, in Puglia sui 3.000 tra uno e l'altro. Però diciamo che ci sono differenti situazioni sui territori diversi, cioè regna il caos completo, quindi è anche difficile organizzare. Io, siccome sono in contatto anche con le altre realtà, cioè addirittura operai che dalle ditte ancora non gli è stato fatto ancora il contratto di lavoro, comunque ci sono le riduzioni degli orari, addirittura gli ex LSU che lavoravano 6-7 ore adesso ne fanno 2-3 e il resto cassa. Quindi è molto generalizzata, c'è un caos completo, non si capisce più niente. La ditta poi minaccia perché dice no, qua bisogna pulire, i lavoratori poi veramente dicono pure che no, ma tanto a settembre la situazione migliora, dunque dovete sacrificarvi questi pochi mesi, poi le cose si metteranno a posto. Non è vero, perché a settembre secondo me non si aggiusterà un bel niente. Stanno prendendo in giro, perché la situazione, cioè le premesse proprio non ci sono, i soldi stanziati insomma non è che basteranno comunque per tornare agli stessi livelli occupazionali. precedenti. Niente, poi il 5 maggio c'è stato un incontro a Roma, sempre con i sindacati soliti, i sindacati confederali, che purtroppo solo loro sono quelli che hanno diritto alla concertazione. E allora si è parlato più che altro della cassa in deroga, perché non la stavano, le ditte non la volevano neanche anticipare. Molti operai erano rimasti pure senza stipendio. La situazione è penosa. Noi lavoreremo fino a giugno, poi oltretutto luglio e agosto staremo a casa senza neanche cassa, oltretutto. Rimarremo senza stipendio. Terribile. Voi come, cioè tu con, cioè come vi state organizzando, come pensate? Purtroppo questo è, siamo a fine anno scolastico e la cosa purtroppo non si riesce neanche a organizzare niente, perché a scuola ormai siamo rimasti in pochi, maggior parte sta in cassa integrazione appunto a zero ore. Le scuole fino a fine maggio poi chiudono in pratica, perché gli studenti non vanno più e non, oltretutto ti ho detto, i sindacati confederali fanno sta propaganda qui che non ci si deve preoccupare, almeno qui a Taranto purtroppo sono abbastanza, insomma, c'è un clientelismo pauroso, cioè i sindacati confederali sono proprio conniventi con la ditta, la Dussmann. Non sarebbe neanche l'unico. Addirittura favoritismi veramente vergognosi, fanno fare assunzioni ai loro rappresentanti sindacali. Guarda, c'è una situazione che io ho pure denunciato tramite la stampa. Ma cioè loro ormai fanno quello che vogliono. Guarda, giorni fa addirittura sono andati con i lavoratori loro iscritti, rappresentanti, nella sede del PD, hanno fatto una riunione, ma giusto era per prendere in giro che hanno fatto andare gli operai, ma era giusto una cosa preelettorale. Guarda, uno schifo proprio. A Taranto quante siete? Noi, io perlomeno, che sono dello Sly Cobas, purtroppo la ditta ci boicotta in tutte le maniere, minaccia gli iscritti, e purtroppo molti si sono spaventati e si sono pure cancellati, insomma. Ti riferivi forse al numero di quanti operai siamo? Sì, anche quante donne sì, poi sì, no, a Taranto siamo, tra Taranto e provincia, 700. Siamo, sì. Certo numero. No, siamo un bel numero, siamo diciamo quasi totalmente donne, oltretutto con situazioni familiari, insomma donne che sono capofamiglia, figli a carico, facilmente ricattabili oltretutto, purtroppo, che con quel poco che già, in pratica i salari vanno dai 500 ai 600 euro, soprattutto sì, la cassa integrazione è all'80%, certo. Che già sono bassi di per sé, adesso infatti, si sono ribassati ulteriormente. Certo. Noi stiamo cercando appunto di denunciare, stiamo facendo un esposto col sindacato mio proprio per denunciare le irregolarità della Dussmann, insomma quello che sta combinando. Insomma, sicuramente se ne parlerà a settembre, la ripresa della lotta, perché gli operai si renderanno conto di essere stati presi in giro e sicuramente si riuscirà a organizzare qualcosa di grosso e di veramente, come dire, forte. Sì, speriamo, perché appunto purtroppo questa è la situazione, è disperante. Tutte le problematiche che ci sono, poi guarda, è veramente un degrado, sai, già non ha compenso, insomma, fatto l'inquinamento, le morti sul lavoro, la disoccupazione che qui a Taranto ha superato il 50%, è molto. Dunque, insomma, No, Fiorella, infatti ogni volta ci sentiamo e la situazione si sì, è guarda, disperante. Come si suol dire, al fine non c'è, al peggio non c'è mai fine. Però certo bisogna, no, è chiaro, magari a settembre, adesso voi avete la prospettiva quindi di stare anche fermi uno o due mesi. Sì, noi saremo fermi due mesi adesso, luglio e agosto oltretutto. Che poi guarda, la cosa vergognosa che noi l'abbiamo chiesto, però i sindacati confederali si sono fregati di almeno coprire quei due mesi con la cassa zero ore invece di farcela fare adesso. Cioè adesso ci potevano far lavorare, visto che c'era bisogno di pulire le scuole perché i bambini ci stanno andando, a luglio e agosto di metterci in cassa zero ore, appunto per garantirci un minimo di reddito. Niente, no, guarda, e poi come dici tu, purtroppo sono loro che comandano adesso, da un po', diciamo, anche da parecchio, sono conniventi col governo oltretutto. Sì, no, certo, quello. Servi, noi li chiamiamo servi dei padroni ormai, questo è tutto, purtroppo. Va bene. Guarda, sei l'avvilimento, però. Lo so, ti sento. So quella cosa che la lotta deve riprendere dura, veramente. Infatti, questo è quello che vi auguriamo veramente tanto. Certo. È quello che vi auguriamo di continuare, di essere sempre di più, soprattutto sì, di sì, no, magari a settembre veramente ci sarà una ripresa, gli altri se ne renderanno conto. Sì, credo proprio alla grande. È che certo, bisogna sempre arrivare a un passo dallo strapiombo, sì, o cadere giù quel e passo poi nel 2007 che ci ridussero l'orario e scoppiò proprio la rivoluzione, guarda, tenemmo la città occupata per una settimana. E infatti ci hanno concesso la cassa integrazione proprio per noi, la cassa in deroga è stata data dal governo proprio per la nostra lotta. Sì, quindi è questo da ricordare magari agli altri lavoratori, agli altre lavoratrici, infatti, che questo ci si deve ricordare di questa lotta, che veramente abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti. Va bene, allora noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente mandiamo i nostri migliori auguri come sempre, noi siamo sempre qui, ci faremo sentire nel caso ci siano novità. E ovviamente i nostri numeri li avete e ci riaggiorniamo, infatti, speriamo con delle novità un po' più positive. Se ci sono novità. Va bene, grazie tante, grazie, bocca al lupo a tutte. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.